ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Pronto? Antò! Chi è? Chi parla? David Parenzo! Oh, ciao, ciao David, come stai? Ma rimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, no, no, mi sto vestito, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa visto di Tagliani. Ma come sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che se stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma allora fatta i cazzi tu, no, va, va, culo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. Senti, dimmi. Allora, io sono lavoro in un'azienda aeronautica, in pratica da, vabbè, da allora 15 anni. Chiama Barisoni. Cosa? No, no, magari chiami Barisoni, non lo so, c'è già, non ci sono le telefonate, è vero, hai ragione, Giacomo, dimmi. Pronto? Dimmi Giacomo, dimmi. Pronto. Praticamente io sono responsabile di una pronto? Parte della produzione, fino sì, a gennaio dell'anno pronto? Scorso avevo pronto. Pronto. Pronto? Pronto? Pronto. Pronto. Non si capisce, vabbè. Pronto! Pronto? Pronto? Mi senti o no? Se secondo voi è normale che pronto? Possa succedere una cosa del... Pronto? Sì, pronto, pronto? Sto sempre, sempre pronto? Qua. Ma mi senti o no, cazzo? Pronto? Non si capisce niente. Pronto? Pronto o no? Ma con chi stai parlando? Via dai, chiusa la trasmissione, basta, basta, basta. Andiamo pure. Dove cazzo vive quel bigotto di Parenzo? Io tutte le sere o le mattine, dipende dai turni che faccio, vado al lavoro e salto sulla mia gru a 20 metri e ho quasi ogni giorno mi faccio una sega, la cosa più normale del mondo. Il buon senso, lei buon reclama senso. Per senti, il commercio che si ferma e tutto, ma se non abbiamo un pochino di riguardo, ma noi esatto. Andremo ma sempre te che ti frega peggio. Che stai barricata. Guardi, dentro casa, sei barricata dentro casa, che cazzo te ne frega a te? Ma io non sono barricata. Non spendi un euro via, per i ristoranti, non spendi un euro. Ma mi lasci parlare anche a me, è solo lei che urla. Si può scherzare, deve fare la persona seria, perché ma io guardi ti... che, Esther, che lei ma dice io ti mando che a fare in culo. No, aspetti, lei dice. Ma è una disgraziata, dai. Su, lei dice che noi che siamo superiori alla bestia, non è vero? A chi è la destra? Che lei dice io? Sempre che le bestie quando morirei non vuole portarti il lumino e così come fanno per il cinghiale, capito? Vecchia maledetta, è uguale a quel religioso là. Perché i religiosi hanno un po' più di sensibilità e un po' più di modestia. Ma tu sei pazza, guarda lei da via del suo. Io non so come fa la sua radio a non metterlo un po' in riga. Giusto, sarebbe giusto. Anche ora, va ma bene. È colpa mia. Buonasera. Grandissima, come vai a cagare? Alla faccia di questa radio del decoro. No, io ho avuto una capra in casa mia, nel mio giardino. Beh. E devo dire che effettivamente sono molto intelligente. Avevi una capra in giardino? Io ho pensato di... Avevi una capra in giardino? Sì, tant'è che ho... io c'avevo il cagnolino e tu c'hai la capra, eh no? Ma io l'ho avuta la capra, è stata con noi tanti anni, è un animale delizioso, intelligentissimo, che mi seguiva come un cagnolino, tant'è che io per un certo periodo ho pensato di assumere delle capre al posto dei giornalisti, che addirittura sono super, vabbè, che sono superiori. È il tuo giornale, però è il suo giornale, credimi. In collegamento da Roma, David Parenzo! Buonasera, eccoci qui, amici, 18:37, anche la Regione Lazio adotta il coprifuoco. Sì, sì, Conte sì, dice, sì, limitate sì, gli spostamenti, ma altre notizie importanti della giornata ci portano in Lombardia, dove la didattica a distanza alle superiori. Giù il microfono, giù il microfono, menagramo d'un menagramo. Io vorrei capire una cosa, faccio però, girare ragazzi. L'aria, grazie. No, vorrei capire una cosa. Però dalle... diciamo al collega Vignetta, stai zitto, girare giù, l'aria. Giù, giù, io vorrei capire una cosa, il coprifuoco dalle 11 o da mezzanotte a che cazzo serve? Diciamoci la verità, a cosa serve? Troppo hai ragione. A cosa serve? Non serve a serve una mazza. Per voi negazionisti, per persone come voi che per mesi avete fatto il ganassa, come si dice a Milano, il virus non c'è, clinicamente è morto, non esiste più, lo abbiamo sconfitto. Per voi ganassa, servono provvedimenti ganassa. Questo allora, è il tema. Allora, un ristoratore molto conosciuto, non posso fare il nome, mi dice: fai qualcosa sulla chiusura dei ristoranti, perché no, praticamente in molte regioni di questo signore si tratta. Non lo posso dire, di questo si tratta. Ordina di questo a casa, si tratta. Sono, a casa anche tu, sono molto certo carico, hanno spaccato i coglioni. Perché la realtà è questa. C'ha ragione. Tutti quanti dicono: beh, sicuramente non succederà nulla a livello economico. Non è vero. No, quella è una tragedia. La chiusura alle 11 a mezzanotte significa che i ristoranti sostanzialmente chiuderanno. Fanno e meno allora coperti, tu certo devi dare dei quattrini immediatamente, certo, governo Conte. Sull'unghia, giusto, cosa che ancora non hai giusto, fatto. Giusto, vi dovete giusto vergognare. Questo vergognare. Giusto, ancora giusto, i morti giusto sono pochi, per fortuna. Tu soffi sul fuoco, ancora no, il rapporto no, tra vanno tamponi fatti grants, e contagiati grants, si alza, ma non è ancora drammatico. E invece qui chiudono tutto, ma se volete chiudere, e va bene, lo accettiamo perché noi non siamo i ribelli, lo accettiamo, ma dovete cacciare i soldi, giusto, cacciare giusto i quattrini, questo chiaro? Giusto, dai, forza. Ti sgarbi, stai convertendo anche tu, perché sgarbi come che Fedez e Ferramme, ma non esiste. Vedo ancora. Fai meno il non ganassa. Come, non come fai dici meno tu. Il ganassa. No, non come dici tu. Stai capendo che il problema c'è, per fortuna. Io lo dico da mesi. Brava. Quando guidi l'automobile da solo, cosa la metti a fare? Quando vai in motocicletta o in bicicletta, cosa la metti a fare? Quindi se Fedez e la Ferragni accolgono la richiesta di quel deficiente di Conte, evidentemente si sputtaneranno, perché non è che i giovani ascoltano qualunque cosa gli dicano Fedez e Ferragni. Il Presidente del Consiglio che li chiama per le mascherine, ma nel culo ti devi mettere le mascherine, se non quando hai la sensazione che ognuno ha di un rischio. Non c'è bisogno che tu la imponga con l'ipnosi di Fedez e mettetevi la mascherina anche quando cagate da soli, mettetevi la mascherina anche quando scopate da soli. Ancora meglio, come ho detto, risolutivo, mettersi un preservativo quando uno dorme da solo. Questa è la teoria di Ilaria Capua, e la mascherina è come il profilattico, sì, se hai bisogno di profilattico per evitare di mettere incinta una ragazza, se sei da solo cosa te la metti a fare? Che tu blocchi tutte le attività dalle 23 alle 5 per impedire ai giovani di vivere, è la morte, è una cosa dei vecchi contro i giovani, è una cosa che non potevo pensare arrivasse, cioè non è una soluzione logica, è un attacco ai giovani, complici, secondo il governo, Ferragni e Fedez. Non vanno puniti i giovani perché vivono, la vita va salvata, è la morte che va combattuta, non capite un cazzo, non capite un cazzo. Comunque ragazzi, alla fine, come vi dico io, ci saranno milioni e milioni di contagiati in Italia, milioni e milioni ce ne sono stati, purtroppo. E ci saranno milioni di contagiati, può arrivare da un momento all'altro, purtroppo. A me dispiace semplicemente, se me lo becco, che non posso condurre questa disgraziata trasmissione per un mesetto, dunque quello che devi augurarti anche tu, Parenzo, che io mi becchi il coronavirus, in modo che forse in questo caso questa emissione radiofonica subirà uno stop, un brusco potrebbe stop, un brusco stop. Sì, ma io non auguro Giordano che tu abbia nulla. e il coprifuoco. Senti, Giordano, però, ad esempio, sostituirei questa trasmissione con delle lezioni di Zagrebelsky sulla democrazia e sullo stato d'emergenza del filosofo Agamben, ad esempio. Ma vai ad a fare esempio. Il culo, vai, vai, ad esempio. Vai. Giuseppe, la potresti condurre comunque da casa. Non lo so, certo. Lo sai, lo sai che non lo so, sai che non lo so, perché secondo i protocolli aziendali, sì, chi è può. Colpito da Covid potrebbe essere formalmente in malattia. E dunque non so se tu in malattia. Fai no, non è che lo faccio. Ma io lo farei anche da casa. Ma io lo farei anche da casa, che c'entra? CGL e CISL e Will, dai. Giordano e coprifuoco, senti. Mamma mia. Ferma, Donato! Il coprifuoco! Il coprifuoco! Donato! Sto bene, sto bene. Il coprifuoco! Il coprifuoco! Il lockdown! La zona rossa! Tutti chiusi! Ci vogliono, ci stanno di nuovo chiudendo tutti! Come ai tempi della guerra, il coprifuoco alle 23... Tutti a casa, succede in Lombardia, succede in Campania, poi succederà anche da altre parti, perché è la soluzione più semplice, no? Quando non si trovano altre soluzioni, che cos'è la cosa? Va a chiudere tutto, si chiude tutto, tutto chiuso, tutti chiusi in casa, ma sempre perfetto, anziché prepararsi, perché non ci siamo preparati. Ha ragione Giordano comunque, ragazzi, sei mesi non abbiamo fatto un cazzo. Misure, rinchiuderci tutti, perché poi alla fine a questo si arriverà a Milano, nel Lazio, in Lombardia, non so, coprifuoco. È una chiusura dentro casa comunque, rinchiuderci dentro casa. Ora a molti di noi non cambia nulla, 23, 5 di mattina, in fin dei conti uno sta a casa, se guarda due serie, se guarda due partite di pallone, bravo, va a letto, esatto, e esatto. Si alza. Bravo un cazzo, ci sono moltissime persone che ci rimettono una barca non di quattrini, dubbio, una barca di quattrini, e tu sono... sei un irresponsabile come no, al solito, ma io un irresponsabile. Questi, io sono tra questi probabilmente, perché... sai, vai, dramma vai, è questo, vai, vai ancora con Giordano, vai, tutti vai. Noi, non voi tutelati e garantiti. E uno dice, il ministro della salute cosa faceva quest'estate? Lavorava per attrezzare gli ospedali? Forse anche, però effettivamente non gli è riuscito bene, però sicuramente una cosa gli è riuscita bene, bisogna dargli a, perché quando le cose sono giuste, il ministro della salute quest'estate, dove sei? Bob Speranza ha scritto un libro. Ha scritto un libro, gli faccio anche pubblicità, guarda, esce dopodomani il libro della Feltrinelli. Ma non c'è, Speranza ha scritto un libro. Ma cosa c'è? Tra? C'è Speranza ha scritto un libro. Quello che Giordano può scrivere libri. Ha scritto un libro, Speranza ha scritto un libro. Ma com'è il titolo? Com'è il titolo, ragazzi? Datemi il titolo. Speranza non c'è, può il ministro scrivere un libro. Ha scritto un libro, il ministro, del, ministro ma della salute. Ma che c'entra? Che il ministro della salute, tutto questo ma tempo. Un libro. Tutto questo tempo il ministro cosa della salute. Dire? In ma questo periodo ha scritto un libro. Giordano, rapaci, maledetti. Voi mi state dicendo che il ministro della salute ha scritto un libro? Ma io sì, ragazzi non ci c'è. Posso. Il ministro della salute in carica ha scritto un libro. David, dimmi che non è vero, ti prego. Ma no, non ho capito ti qual prego, è lo scandalo. Dimmi che non è vero. Ma lo stai dimmi dicendo che non è come vero. Se fosse a capo della, ti prego, della mi inginocchio. Mi inginocchio davanti a te, guardami, mi inginocchio. Non ti vedo perché vedo, mi inginocchio. Vedo la regia. Dimmi da che qua. Ha scritto un libro. Non lo Poli, vedo perché dimmi, vedo la regia. Comunica, Poli, comunicamelo. Sì, scusa, allora il titolo del libro è Perché guariremo? Perché guariremo per guarire, dai giorni più duri a una nuova idea di salute. Feltrinelli, il ministro della salute, ma Speranza, in tutti libro? Questi mesi, ma non può. In ginocchio. Tu hai scritto un libro con il culo in copertina e un ministro non può scrivere un libro sui temi di sua competenza? Ma di che parli? Il ministro della salute ha scritto un libro, Perché guariremo, esce domani. Ma no, amici, ci dovremmo miei. Chiedere perché una casa editrice come la nave di Teseo pubblica il tuo culo in copertina, non perché il ministro della salute scrive un libro. Il ministro della salute ha avuto il tempo in tutti questi mesi, amici miei, di scrivere un libro ma dal non titolo so, ma Perché guariremo. Perché? Meno male. Perché guariremo? Ma c'è da toccarsi i coglioni, esce domani. Toccatevi tutti insieme i coglioni in questo momento. A pelle, domani esce il libro. Dove ha trovato il tempo? Perché questo titolo? titolo, perché? Perché, ragazzi? Ma ditemi che non è vero, ti prego, Poli, dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero, ti prego, dimmelo, ti scongiuro, ditemi non è vero, è uno scherzo. È vero, è vero, ha scritto il libro. Il ministro, della salute, il ministro della salute, dimmi in ginocchio davanti a te. Ti chiedo un attimo di razionalità, David, ti chiedo un attimo di onestà intellettuale. Di onestà intellettuale, ti chiedo, perché le telecamere in questo posto non funzionano, non funziona un cazzo, è chiaro o no? Allora posso dirti una cosa? L'azienda e dice parolacce. Posso dirti, ti posso chiedere. Si mette in malattia. No, è un inviato senza aver mai fatto l'inviato. Posso chiedertelo in ginocchio, ti chiedo in ginocchio un attimo di onestà intellettuale in questo posto dove non funziona una cippa di un cazzo. Ti posso chiedere, ti chiedo un attimo di onestà, anche se non mi vedi, di onestà intellettuale. No, non leggerò il libro di Speranza. Va bene. È normale che un ministro in tutti questi mesi abbia scritto un libro. Ma non c'è nulla di male, certo. È normale. Perché racconta il suo diario, anche la sua riflessione su come guariremo. Ti ho chiesto un attimo di onestà intellettuale, ti prego. Ti ho chiesto un attimo di onestà intellettuale. È normale che la casa editrice, quello che io sono un privato, pubblichi un buco del culo di un conduttore della radio della Confindustria? Questa è un'altra domanda che ci dovremmo fare. C'è niente da fare. No. Se il lockdown in Italia si farà per colpa dei coglioni come te, Meluzzi, Sgarbi, che minimizzate il virus e fate tanto quelli facili. Ricordatelo, sarà proprio per i coglioni come voi che faremo il lockdown. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o zappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Cusani, pezzo di merda da salotto, come ti permetti di prendere in giro e insultare la signora Esther? Vediamo quanto riderai quando sarai intubato, negazionista del cazzo. Buonasera. Allora ragazzi, oltre ai contagi, a quello che si deve fare, a quello che non si deve fare, perché tanto non ci capisce un cazzo nessuno. Ma come non c'è? Oggi ho registrato, caro Davide, ho registrato oggi, stai zitto un attimo, ho registrato oggi, ti giuro, sullo stesso argomento, per esempio i vaccini, almeno 4 pareri discordanti di gente, tutte, diciamo, formalmente ad altissimo livello. Questo è vero. Arriverà entro 2 mesi, non arriverà mai, entro non serve anni, un cazzo, serve entro 2 anni. Un cazzo, non lo dice nessuno. Molti dicono che non serve un cazzo. Scordiamoci il vaccino, c'è una di queste, la capo, dice no, ma non è una cosa importante. Ti giuro, è così, ma non lo sto dicendo, ma la realtà è questa. Che molti pensano che l'immunità di gregge, ma diciamo, ti sto dicendo che su qualsiasi argomento, vaccino, certo che su serve. Qualsiasi argomento tu trovi, scusami, il vaccino certo che serve, altrimenti non sarebbero tutti lì, le case pronti a cercarlo. Ma quella è business, quella hanno ragione coloro che dicono che è business, è normale che sia business. Ma certo, ma c'è nessun business, perché verrà venduto a 3 euro a dose. La vedi, non sai, David, scusami, lo venderà, però, a 3 non puoi, euro a adesso dose. Io ti voglio bene, ma tu non puoi scendere così dal pero, pensare che sia tutto fatto per, c'è business, sicuramente, per c'è carità la ricerca, di patria, ma dai, c'è la su. Ricerca, c'è ma la va ricerca. Bene, però io tu hai fatto il vaccino antinfluenzale, ad esempio? No, io non l'ho faccio, fatto. Non lo faccio mai. Ecco, bravo Pirla. Oltre a questo, io ho fatto il vaccino io non lo faccio, non l'ho mai fatto e non lo farò, ma figli. Perché non ci credo, semplicemente perché sti cazzi. Ma non ci credo, come non credo? Mica è un atto di fede. Ho detto, non è che non credo nel vaccino antinfluenzale. Penso che possa essere utile per proteggere alcune è tipologie. Per proteggerti però anche a te dall'influenza, dirti, e per non intasare gli ospedali e il caso tutti prenda il COVID. Ho il diritto di non farmelo, sì, porca la gran puttana. Ma se ti ammali non devi rompere i coglioni, però. Te ma lo che devi cazzo tenere. Sei? Peggio di Göring, no, scusami. Se ti ammali. Questo non era questo è grave. Se ti ammali non devi però rompere i coglioni. Allora, io guarda, ti giuro che se da qui a aprile ti ammali, porca non troia, devi rompere i coglioni, perché il vaccino non te lo sei fatto. No, devi stare zitto. Ma cosa c'entra? Muto devi stare, allora, muto. L'altra notizia come è portata a Gomorra, muto. L'altra che c'entra Gomorra con muto? L'altra muto. L'altra parola in Sicilia, scusa. L'altra frase oggi importante l'ha pronunciata il signor Papa, signor Bergoglio, signor Bergoglio. Papa Bergoglio. Il signor Papa è il santo padre. Il signor albergo, posso dire il signor Bergoglio? Santo Padre, lo dici tu che credi a questa puttanata? Ma no, io ho un'altra azienda. Per me è un'altra azienda, no, quella lì. Per me il Papa è un passante qualunque, capito? Un signore con una tunica bianca che sta lì a dire la sua in uno stato straniero. Il capo di uno stato straniero. Il capo della... capo di uno stato straniero. Il vicario di Cristo in terra, per voi, non per me. Io lo dico. È il capo di uno stato straniero per me. E dunque non deve rompere i coglioni sulle leggi nostre. Oggi ha detto sia una legge sulle unioni civili. Ma sti grandissimi cazzi, grazie. Non ci interessa il prete del Papa, perché non riguarda il Vaticano. Si possono sposare i gay in Vaticano? No, non si possono sposare i gay in Vaticano. Dunque, pensasse a far sposare i preti gay in Vaticano, non pensasse alle nostre leggi. Ci pensiamo noi, sia alle unioni civili. E sti grandissimi cazzi, pensa alle leggi della città del Vaticano, pensa a cacciare via gli ultimi pedofili se ci sono ancora, e pensa a far scopare i preti, al matrimonio tra i preti. Ma perché non pensi al matrimonio tra i preti? E non ai gay che si devono sposare, di leggi di un altro stato, che ti interessa? È incredibile questa cosa. Tutti a esaltare, ah, le grandi parole del Papa, il grande avanzamento della Chiesa. Si deve occupare della città del Vaticano, non delle leggi dello Stato italiano, chiaro? Non delle leggi dello Stato italiano. Che cazzo, tutti a esaltarlo. Viva il Papa, viva il Papa, viva il Papa. Ma quale viva il Papa, dai? Silvano da Parma, vai, Silvano da Parma. Spostamento di veicolo. Dimmi, nel verbale. Non ho capito. Attenzione. C'è scritto nella sinossi su internet del libro di Speranza, ragazzi, da toccarsi i coglioni. Meritiamo un paese sano, meritiamo un'Italia libera dalle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, in cui nessuno resti indietro. Meritiamo una nuova stagione di riforme senza tagli, ma al contrario, con una decisa politica di investimenti. Super cazzole. Questa è la lezione del Covid. Ma quale lezione del Covid? Com'è il titolo, Poli? Com'è il titolo del libro? Ancora non me lo sono dimenticato, è talmente una follia. Ha scritto un libro il ministro della salute in questi mesi. Perché guariremo? Ma toccatevi tutti a pelle in contemporanea. Perché guariremo il ministro della salute? Ma mi tocco a pelle i coglioni, Silvano da Parma. Un libro che... qua. Io vado ai matti, un libro, il ministro della salute. Perché tu puoi scrivere i libri e il ministro della salute sui suoi temi di competenza non può? Silvano, dimmi, Silvano, guarda. Dottor Ruggiani, mi dica se sono in linea. Dica, in linea, Silvano. Purtroppo. Buonasera. Sì. Buonasera a tutti. Dica. Guardi, dica io se sono in linea. La porterei su un altro argomento, no? Dimmi. Per gravi danni da cinghiali. Sì. Ieri sera mi ha messo in attesa rispondendomi, c'è la pandemia e questo parla di cinghiali. Giusto, la gente parla anche di altre cose, non è che si può parlare solo di cose. Per favore, magari questa sera mi dovrebbe attenzionare un momento, ma sarò sintetico. Sì, però amico mio, abbassa la radio e parla veloce, dai Silvano. Forse c'è la radio di più. Sì, sto recuperando del tempo perché sono nella stalla, sto curando le belle. Ecco, adesso la radio non c'è più. Che è successo con i cinghiali, Silvano? Allora, niente, io sono in una strada ad alto traffico, c'è la segnalazione di pericolo bestia, eccetera, vado adagio. Però un grosso cinghiale distrugge l'auto che tenevo come una reliquia, non avendo la possibilità di comprare altre robe. Spingo l'auto fuori strada, dato i gravi pericoli a stare lì, chiamo il proprietario del cinghiale, che è lo Stato, no? Allora? Siamo d'accordo. Che è successo? Per cui arriva un solo carabiniere, quello mi eleva una contravvenzione per spostamento di veicolo. E nel verbale non descrive il malincontro che ho fatto io ieri sera. Guarda, è una cosa, guarda, ti serve tutto. Ti serve un avvocato, posso dire, ti serve un avvocato. Silvano, ti serve un avvocato. L'avvocato da dormire. È il migliore. Mettere sotto sequestro tutto sotto sequestro. Tutto. I carabinieri pure locali che si sono comportati malissimo. L'agguato. L'avvocato da dormire interverrà immediatamente. Sequestro di tutta l'area. Innanzitutto, cinghiale sequestrato. Se non è morto, di tutte le caserme d'Italia, di tutti i carabinieri. Ma che c'è? Meglio prevenirsi, perché è una cosa molto grave. Fermi tutti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. La Zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Uffa Renzo, sei contento adesso che hanno chiuso la Lombardia? Eh? Sei contento, Parenzo, che ci sarà la gente che morirà di fame? Più che del Covid? Facile quando c'è uno stipendio fisso, Parenzo. Eh? Sei contento adesso, Parenzo? Testa di cazzo? Parenzo, ma fammi capire una cosa. Non mangi il maiale, non mangi i crostacei, non lecchi la figa. Ma che cazzo di vita di merda è la tua? Figa Parenzo, adesso mi devi dire pure a che ora mi devo fare una sega, cioè, incredibile, la sega è L'Oreal Top, L'Oreal Top. Ma io non ho mai invitato 6 persone al ristorante, al massimo ne ho invitate 2 o 3, e dopodiché, beh, naturalmente io alle 10 di sera me ne vado a casa perché devo dormire, io non ho la possibilità di stare in piedi fin tardi perché poi devo lavorare, siccome io lavoro oggi che ho 77 anni come quando ne avevo 42, quindi ho bisogno di riposare e quindi non me ne frega niente del coprifuoco. Diciamo che il popolo italiano non è come quello francese, beve meno, però insomma qualche alcolico se lo trinca, per cui lasciateglielo comprare. Non capisco perché dopo le 18, no, e prima sì, cioè che senso ha, perché dopo le 18? Mica si va in giro a bere per strada, a ubriacarsi. Uno si compra una bottiglia di Chianti, va a casa sua, beve un bicchiere e poi va a dormire. No, veramente sono provvedimenti insensati. Non dobbiamo dimenticarci che questa è una pandemia, le pandemie sono fenomeni epocali e trasformazionali. Certo. Beh, certo, cioè, Capua, la signora Capua. Trasformazionali, certo. Non dobbiamo dimenticarci, ma di che stiamo parlando? Tutte banalità assortite. Ma risentiamo il nostro esempio massimo, Palù. Il mitico Palù. Tu prendi i medici che più Palù ti interessano. Crisanti, esperto di zanzare, senti. Crisanti è un mio allievo, nel senso che accademicamente l'ho chiamato io da Londra. Non è un virologo, non ha mai pubblicato un lavoro di virologia. Devo dire, ecco, che negli ultimi 10 anni non ha neanche pubblicato lavori di microbiologia. Ho fatto una certa difficoltà a chiamarlo, dico le cose per quello che sono. Ma è un esperto di zanzare. Una persona che fa queste predizioni, questi sono DPCM di pseudovirologi, fa anche lui il suo decreto della Presidenza della Repubblica e sancisce un lockdown, io mi domando ma a che titolo? Quindi, e poi su che base? Beh, tu capisci, caro Davide, che in un mondo in cui ogni giorno sentiamo 2000 storie sui vaccini, una diversa dall'altra, in cui i virologi si bastonano tra di loro, cioè i virologi bastonano altri dicendo che non sono virologi, infettivologi contro infettivologi, medici contro medici, a chi cazzo dobbiamo ma credere? Aveva ragione o a no, noi Crisanti? Stessi, ma sì. Non lo so, può darsi. Credere a noi stessi chi adesso, aveva, sei arrivato chi oltre aveva... i negazionisti, cioè no, credere a noi fare stessi. Fare affidamento solo su se stessi e basta. Ma che vuol dire? Appunto, ma dovrai basta. Seguire delle regole, no? Non facciamo affidamento su noi stessi. Il tuo buon senso, il tuo famoso buon senso era quello che ti ha fatto andare al ristorante fino all'altro giorno sbaciucchiando chiunque incontrassi, no, veramente, a farti selfie alle presentazioni del tuo fottuto libro senza mantenere il distanziamento. No, ti sbagli, il tuo, ti sbagli, il tuo sbagli, buon senso sbagli, è quello di dire che è poco nemmeno. Più di un'influenza, ma non ti rispondo il tuo nemmeno. Buon senso è quello di dire senti che è poco più di un'influenza. Senti i ristoratori di Milano incazzati con la ma regione Lombardia, sono senti, senti, tu non sei incazzato, stai in un brodo. Non di... sto, no, io sì, sono il primo sì. Che posso sei perdere seduto i lavori su 4 invece. Guanciali sei ma seduto. Quali 4 guanciali? Vabbè, perderai una partita migliaia di euro. Perdo il lavoro. Qualche migliaia di euro. Se si chiude la trasmissione perdo il lavoro. Questa non chiuderà mai, posso dirti, non chiuderà mai. Mi auguro questa che non chiuderà mai. Paradossalmente mi auguro che chiuda. Paradossalmente, no, anche no. Se mi dovessi arrecare un no, danno, no, no, sì, è maggiore il danno al paese, dice, è maggiore. Propali talmente tante puttanate pericolose ogni giorno che io mi dovrei augurare per il bene dopo civico la, che... Dopo chiamo la professoressa dell'altro giorno, devi stare zitto quando la chiamo però, Dopo chiamo la professoressa Mariani, Ornella Mariani, la signora, mi prometti che stai zitto? Sono quella attacca al telefono. Mi prometti che stai zitto quando chiamo la Mariani? Me lo prometti o non me lo prometti che stai zitto? Oh, me lo prometti? prometti o no che stai zitto? Sì, certo. Non posso promettere cose che non lo so. Adesso ad impossibili a Nemo Tenetur. Io domani come pago i miei dipendenti? 36 dipendenti, come cazzo li pago? Anche questi bisogna sono ascoltare. Sono questi i problemi. Cacciate i soldi. Fateci stare aperti almeno fino a mezzanotte. Che cosa vuol dire le 11? Che cazzo vuol dire il coprifuoco? Neanche nel tempo della guerra c'è il coprifuoco. Siete delle merde. Avanti tutta, ristoratori, avanti tutta. Il vostro stipendio, se avete i coglioni, il tuo stipendio, mettilo giù. Il tuo stipendio, lascialo giù qua. Se c'è il coglione, il tuo stipendio, dov'è? Lascialo giù qua. Io ho 10 dipendenti che hanno tutti famiglia, 3-4 figli. Come li paghiamo? Lo Stato dov'è? Ci dice di chiudere? Chiudiamo, va bene. Cosa ci danno a noi? La prevenzione dove sono stati? 6 mesi. È da aprile che lo sanno, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, dove sono stati? Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Comunque ragazzi, a proposito di preparazione, mi scrivono: sono 30 al momento le ambulanze del 118 bloccate fuori a diversi pronto soccorso del Lazio in attesa che i pazienti vengano ricoverati. Tra i pazienti a bordo ci sarebbero anche sospetti Covid. Penso lo si apprende da fonti sanitarie. Una delle ambulanze sarebbe ferma dalle 23 di ieri sera fuori dal Policlinico Casilino di Roma. Manco in Africa ste scene, manco in Africa. Perché non esiste problema, vergognatevi, il problema sono quelli che sono al governo. Quelli sono il problema, non le persone. Perché porca guariremo puttana. Il libro di Roberto Speranza edito da Feltrinelli. Incredibile. Guarda, non mi fare tornare alla scena di prima che ho fatto, perché guariremo il perché ministro Speranza che non ha fatto un cazzo in questi ultimi 6 mesi, diciamo la verità, niente, va assunto niente 35 per risolvere, ma che assunto 30.000 medici, 30.000 infermieri, medici, oh, però ragazzi. Ha scritto un libro Tommaso da Pavia, dai. Ah, ma questo cosa vuol dire? Però, incredibile. Dai. La gente come prende questa cosa che uno ha scritto un libro, il ministro della salute ha scritto un libro, ma anche tu puoi la scrivere gente, il libro, come il ma non è che toglie tempo al suo lavoro scrivere un libro. Tu hai tolto tempo al tuo lavoro per scrivere il tuo ma non lo so, questo non è un problema. Certo che ha tolto tempo Tommaso da Pavia, certo. Che ne sai? Ha lavorato e magari dimmi, hanno aiutato. Dimmi, Tommaso, dimmi. Allora, Crucio. Dai, dimmi. Oh, allora, io volevo dire una cosa. Ma Sgarbi, come si permette di dare il deficiente a Conte? Cioè, l'onorevole Sgarbi. Parenzo, cosa ne... io mi fido di Parenzo in questo, perché Parenzo sempre... intanto Centinaio, il leghista Centinaio contro il coprifuoco in Lombardia dice: ma è un coglione, ma dice ma cagata pazzesca, coglione, vado in strada, arrestatemi, dice, arrestatemi. Centinaio, che era un moderato, ma una volta era un moderato, ma ha ragione lui. Ah, quindi posso tu sei d'accordo con chi protesta adesso? No, io sei veramente ambizioso. Io non mi farò arrestare perché devo condurre perché questa disgraziata trasmissione. No, ma perché non hai il coraggio di far andare fino in fondo tu? Il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia è una puttanata pazzesca che compromette solamente posti di lavoro e fa perdere soldi a un sacco di gente. L'utilità, lo dicono tutti, l'utilità dal punto di vista della curva dei contagi è zero assoluto. Zero, lo dicono tutti, dai, tutti. Riduce, tutti. Però, siccome non fanno il lockdown, su una cosa sono riduce d'accordo tutti. L'impatto, purtroppo, riduce l'impatto sui ristoratori, o almeno prova a farlo, e non fa il lockdown generalizzato che produrrebbe ancora più danni. Tommaso, questo è il io tema. Volevo parlare di Sgarbi. Dare il deficiente a Conte, ma come si permette l'onorevole Sgarbi? Mi sembra la cosa più leggera che ha detto, però ma è un coglione, ma non deve denunciato, deve istituito il suo ruolo di parlamentare e essere ineleggibile a Roma, ma è un coglione, ma non è un coglione, ma è Sgarbi, punto e basta. Perché dici che è un coglione? È Sgarbi, Tommaso, scusami un attimo, tu di fronte a Sgarbi dovresti metterti lì in ginocchio e pulire, lucidare le scarpe, che questo al limite potresti... all'arte, sì. No, ma in generale lucidare le scarpe, grazie professor Sgarbi di esistere, Vittorio di esistere, lucidare le scarpe, dici grazie di esistere perché ci fa passare delle straordinarie giornate con intelligenza e anche ogni tanto. Ma dov'è l'intelligenza? Ma dov'è? Senti, ma dov'è mio, l'intelligenza? Che cazzo fai tu nella vita? Che cosa cazzo hai fatto? Spiegami, cosa cazzo hai fatto nella vita? Cosa hai prodotto nella vita? Tommaso da Pavia, dimmi. Però, cosa hai prodotto? Ma, un cazzo. Ma a scuola, ma cosa avresti prodotto? Quanti anni hai? Ma 18, 17, ma cosa te ne frega? Ma quale 18? Ma quale 17? Con sta voce 18, 17 anni. Comunque 18, 17 ma anni. Ma veramente, ma sei ma 18 anni va bene avere queste... Sei e allora cosa ti metti da me cosa ho fatto nella vita? E che ne so io? Ma sono cose diverse. Uno è un critico d'arte e fa il suo lavoro egregiamente. Ma che critico d'arte? Cosa? Quello è Vittorio Sgarbi, solo critico d'arte, mamma mia. Riccardo da Teramo, comunque combatti Tommaso, per avere 18 anni combatti. Riccardo da Teramo, dai. Giudicare le persone solo in base al fatto che combatte. Sì, Riccardo da Teramo, dai Riccardo. Io non ho nulla da dire di intelligente, volevo soltanto dire che... Questo già è un buon segno però, Riccardo. È nel posto giusto. È un buon segno questo qua. Cioè parti bene con questa cosa qua, dimmi. Allora? Niente, volevo soltanto dirti che a me personalmente sei simpatico, sì. Però oggi quando ho sentito l'inizio della trasmissione, hanno fatto risentire quello della vecchietta, ho pensato a Cruciani è veramente uno schifoso, sì. Ma poi ti guardo anche in video e fai tutto un toccarti le palle, tu stai fuori di testa. Perché? Veramente. Scusa, qual è il problema che mi tocco ma il genitale? No, nessun tipo di problema. Cos'è che ti urta di questa cosa? Beh, insomma, è una cosa non mi urta. Non che mi urta, cos'è che ti urta? Non ma che cos'è che ti urti? Allora non rompere i coglioni. Se a me mi va di toccarmi i genitali perché ho un tic o perché mi piace, ma cosa c'entra che sei un coglione? Cerca di essere almeno coerente con quello che dici. Uno si tocca le palle magari perché ha un tic oppure perché semplicemente perché mi va di toccarmi dai pantaloni. Ma a te che te ne frega? Scusa, ma a me non me ne frega assolutamente niente. Stavo soltanto dicendo, ti guardo di tanto e fa tutto un toccarti, tant'è che non posso guardarti. Ma io, insomma, a parte questa cosa qua, girati, spegni. No, fino alle 7:30. Ma perché poi, comunque... sei un perverso anche tu? Perché sei un maniaco? Perché sei un addicted? A me mi sei simpatico, Luciani. Ciao Ricca. Vai a fare in culo, imbecille. Ciao. Ora! È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite, su Aruba.it. La Zanzara. Cina col PIL 4,9% in positivo. Vedi, David, uno fa male sì a essere complottista, però cazzo... No, qualche sospetto ti viene, no? Tutto il mondo a terra e invece loro alla grande, stanno alla grande. Quel cazzo di paese fa schifo, sembra Mordor del Signore degli Anelli e loro gli orchi. Io li odio proprio, fanno vomitare, stanno sul cazzo da morire. Pochi giorni fa sono andato da un cinese, ho acquistato una cosa, prima amici, abbiamo scherzato, abbiamo riso, poi mi ha dato una cosa difettosa, sono tornato, parlavamo due lingue diverse. Questi sono i cinesi, capito? Fanno i finti rincoglioniti, sono delle merde. Ma vogliamo parlare delle mascherine o no? Adesso si vede ancora gente in giro con le pezze di stoffa davanti alla bocca, è ora di finirla. Ma mandate la guardia di finanza a questi pezzi di merda di ristoratori che si lamentano. Ma di che cazzo vi lamentate? Potete fare il delivery e non lo fate perché i guadagni li dovete dichiarare. Potreste fare i lavori di sanificazione per il locale e non li volete fare perché non volete spendere un centesimo. Io non lavoro da 7 mesi e non mi sto lamentando. E voi pezzi di merda bastardi vi permettete di rompere il cazzo. Mandatevene a fanculo. Mandategli la guardia di finanza e rompetegli il culo. Allora, oggi una gentile signorina, credo che si chiami Alessia o giù di lì, mi ha mandato una foto con i suoi piedi e che calpestavano il mio libro. Calpestavano il libro. Però vuol dire che l'ha comprato. Certo, naturalmente. Però a parte questo, pure gli hanno regalato, non lo so, non è questo il punto. E voleva la gentile signorina un giudizio sui piedi. Che ne pensi dei miei piedi? Chi voleva averlo? La signorina in questione, penso che sia una. Quindi magari ha preso il libro a sfregio, lo ha calpestato e poi ti ha chiesto. No, non lo ha calpestato, l'ha messo sopra, gentilmente sopra. In stile e voleva di dominazione. Che ne pensi dei miei piedi? Io, guarda, amica mia, non sono abituato a giudicare i piedi da lontano. Molto difficile giudicare, uno può correggere. Ma è che così te li giudichi. No, non ho detto questo. Ho detto un'altra cosa. Ho detto che chiunque voglia farsi giudicare i piedi, non essendo possibile purtroppo da disposizioni aziendali durissime entrare dentro questo luogo, dovrebbe venire qui sotto la sede di Radio 24, cioè in pubblico, in una situazione pubblica, almeno qui all'ingresso di Radio 24. Noi faremo un esame preliminare dei piedi. Chi è presente qui con me, non lo so, sarà il signor Poli, il signor Longoni, non lo so, qualcuno di questa disgraziata trasmissione. Analizzeremo il piede, faremo le foto. toccheremo con mano, per quanto si possa toccare con mano, come ho fatto peraltro sabato sera ad Abano, caro Parenzo. Qualche ragazzina, qualche ragazza lì presente, ragazzina, ragazza, insomma, maggiorenne, si è presentata. E io ho vivisezionato i piedi, vivisezionato i piedi, uno a uno, vivisezionato i piedi. Ma secondo te è normale che un giornalista che ha scritto un libro viene poi interrogato sui piedi di una presente, di una ragazza presente alla presentazione del libro? Cioè, secondo te, per farla molto breve, ma certo, il professor Galimberti, il professor Cacciari, quando presenta il libro, quando presenta il libro, quando il rapporto Cacciari, che hanno con queste persone, oppure prendiamo un altro nome, prendiamo ad esempio prendiamo un grande direttore, comunque, questo per dire Marcello che i piedi... Sorgi, secondo te, quando il direttore Sorgi va a presentare i suoi libri, secondo te qualcuno gli fa presentare i piedi? Secondo te Stefano Bernard Henri Lévy, secondo te quando scrive i suoi saggi, secondo te si fa poi guardare i piedi? Magari non in Sebastiano pubblico, cioè. Barisoni, secondo te? Si fa guardare. Quello non scrive mondo. Libri, per cui i piedi vanno visti da vicino. Chiunque non scrive voglia libri, Barisoni? I piedi, no, per adesso. Capolavori, no. I piedi vanno visti da vicino. Chiunque voglia farseli votare, venga qui prima delle 21, bussi a questo luogo. Beh, il coprifuoco alle 23, scusa. Bussi sotto la radio, avrà il suo voto. La signora Alessia, questo deve fare. Joseph dalla provincia di Ascoli, vai avanti tu. Che ce l'abbiamo fatta. Allora, io volevo, buonasera Cruciani innanzitutto. E l'ASL di Napoli che dice di questi qua che arrivano dall'Olanda e che hanno 7, 8, 10 contagiati in squadra? Potrebbero essere contagiati anche loro? E come mai non è intervenuta l'ASL di Napoli? Piccola parentesi chiusa, Joseph, dimmi. Oh, buonasera. Allora, Joseph, io volevo parlare di un piccolo tema, aprire un discorso riguardo all'immigrazione col dottor Parenzo, perché io vi seguo da pochissimo, Joseph, ma ho sentito una marea di cazzate, disse Joseph, una marea di cazzate, ok, di quel nano che osa pure fare la foto con il pugno alzato, pugno alzato, mentre io non posso fare magari una foto con il saluto fascista. Cioè, questa è una cosa incredibile. Joseph, a chi ti rivolgi? E lui è un comunista. No, aspetta un attimo, lui è un comunista. A chi ti riferisci? Lui è un comunista. Sei di quella comunista. Per convenienza, per quale motivo? Perché è fidanzato con una zingara. Di conseguenza non gli resta altro che fare così. Di essere un comunista. Ma chi è fidanzato con una zingara? Ma questo cazzo, Querela. Ma chi sarebbe la zingara? Aspetta, chi sarebbe la zingara? Joseph, chi sarebbe la zingara? Non ho capito. La della una moglie, non so che cazzo è, la di moglie di Parenzo. No, veramente non è, no, a parte che non è zingara, manco per niente. Non sarebbe un'offesa. Tu, scusa, è italiana, vuoi dirmi che è italiana? Beh, certo che è italiana. Certo che è italiana. È italianissima, scusa. C'è zingara. Perché c'è tra zingara? Scusa, ma guarda, se ascolta ti porta via tu. Io una spero, allora è una mezza zingara e lui ma fa. Ma non è vero, ma non è zingara, ma dove l'hai visto che zingara? Ma ve lo dico io. Ma dove l'hai visto che zingara, imbecille? Ma dove l'hai visto che zingara? Ma a parte che non sarebbe un'offesa, ma dove, da dove hai detto? No, l'hai che detto è come se fossi offeso tu. Sì, tra l'altro, ma da dove tu l'hai detto come se fossi offeso? No, io, ma dico, non è zingara per niente. Ma da dove hai dedotto? Ho detto ti querelo perché hai attribuito un'identità che non è la sua. Sarebbe come se io ti dicessi che sei uno stronzo. In questo caso, ti sto attribuendo una identità che ti appartiene. Ma fai benissimo a dire così, però posso dirti una cosa: io l'ho dedotto dal fatto un nano così, con sta faccia da cazzo, non se lo piglia. Piacere, Parenzo. Quindi lo va a prendere chi? E quindi la vedo una straniera, tu dici. Quindi una straniera, come gli africani. Posso dirti che secondo me questo Joseph dalla provincia di Ascoli è un ammiratore di sua eccellenza. Io vado a intuito. Per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Alle ultime elezioni per chi ha votato lei? Non ho votato, ma la cosa che mi fa girare i coglioni. Comunque adesso stasera quando dico a Natalia che un ascoltatore imbecille della Zanzara gli ha dato della zingara. Sì, esatto. Secondo me no, ma non la prenderà benissimo, non perché ce l'abbia con le zingare, ma perché ritiene già questa trasmissione una cloaca. In più, chiamando personaggi, ti assicuro, per anni si vergognava di dire che stava con me per colpa di questa trasmissione, ti assicuro. Dimmi la verità, ma tu la chiavi? Mamma mia, ragazzi. Dimmi la verità, la chiavi, perché io non credo. Mi puoi spiegare a questo personaggio schifoso che questi termini io non li usi? Joseph, però posso dire, secondo me, dimmi, poi dice la chiavi. Ecco, l'avvocato Trucco dice, ho già informato Natalia, non è una bella cosa quella che ha fatto l'avvocato Trucco, ti ringrazio, sei sempre un amico. Ma che cazzo me ne frega a me delle querele, ma che cazzo me ne frega? Questo è nulla da niente, ti ringrazio. Infatti, Ignazio, giustamente. Scusami, Giuseppe, caro, posso, di cosa vive? Posso caro dirti, avvocato, sei sempre un amico. Scusami, grazie. Giuseppe, posso dirti una cosa? Allora, secondo me tu sei un ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini, o sbaglio? Certo. Eccolo, vedi, ecco, però certo, tutto dice, si tiene, però. Ma tutto, certo, si tiene. Ma cioè, e anche magari il signore. No, no. Anche il signore coi baffetti, forse, no, forse il signore coi baffetti. Quella, quella è un'altra questione. Quelle sono cose che questione, ci sono cose, no, che accetto, certe cose no. Ma cosa accetti del signore coi baffetti? Aspetta, aspetta, aspetta, arriviamoci con calma. Nati, no, non c'è da arrivarci con 40 calma. Minuti, 40 ma minuti. Ma non hai un cazzo da fare, tanto sei un idiota che non ha nulla da fare. Tu c'hai da fare, tu che stai lì a prendere soldi per dire cazzo. Sono pagato per ascoltare le tue stronzate. Io sono pagato. Io purtroppo devo stare qui ad ascoltare le tue stronzate, perché sono pagato abbastanza bene per ascoltare le tue stronzate. Ma tu sei nulla tenente, ma tu sei nulla. Signorina, chi ma che te ne frega te? Ma che te ne frega te? Sta a casa, ma scusa, sta a fare con i bambini. Allora, ma posso parlare? Ma tu sei nulla tenente. Allora, Cristiano Malacrino, che è un autore televisivo, mi dice: manda a fare in culo Josef da parte mia, ti prego. Ecco fatto. Io mando a fare in culo Parenzo. Cristiano Malacrino, perfetto. Scusami, Josef, ma tu sei, oltre che un ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini, mi sembra di capire, no? Pensi che sia stato un grande signor Mussolini? Credo, credo. Sì, sì, no, sì. Che cosa ha fatto di buono, signor Mussolini? Posso cosa parlare? Ha fatto di buono, signor Mussolini? Ma io voglio a parte che ha fatto le pensioni con quello che voi camperete, no, ok? Però a parte tutto, io che ho un tatuaggio di Benito Mussolini, pure, ok? Pure il tatuaggio, sì, cioè, pure. Dove ce l'hai, sì, il tatuaggio? Non è uno scandalo. Dove ce l'hai il tatuaggio? Nel buco scandalo del culo, dove ce l'hai il tatuaggio? No, sul petto ce l'ho il tatuaggio, sul petto. Manda una foto in questo momento, 393-71-71. No, no, no, mi hai rotto i coglioni. No, no, tu aspetti perché ti do la pagina Facebook e ci vai lì a vedere se ce l'ho o non ce l'ho. Va dammi bene? La pagina Facebook, dammi la pagina Facebook e poi manda Pina un... Joseph. Come si chiami, scusa? Pina Joseph. Pina Joseph. Sì, con la F finale, non col PH. Scusa, mi sta informando la signora Natania che per le calunnie di cui ho saputo ho già mosso, sì, l'avvocato Trucco. Questo sta dicendo. Sì, muovi anche... Basta, cosa? Ascolta. È arrabbiata parlare, perché se ha scritto a te e non ha scritto a me vuol dire che il clima a casa non è dei migliori. Scusa, vabbè, non mi interessa. Scusami, però, Joseph, ascolta, tu sei nulla tenente? Sì. Nulla tenente, dunque non è possibile, esatto, anche se ti querela non te ne frega un cazzo, tu sei nulla tenente. No, ammiratore, no, di, ammiratore di Benito Mussolini. Volete togliere le scarpe, mi vogliono togliere, ma che cazzo me ne tutto, frega a me con la portiamo via tutto. Che fai? Tutto. Ma portami via tutto, che cazzo ma mi che porti fai via di mestiere? Che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Niente, niente. Nulla tenente e c'è un tatuaggio di Benito Mussolini. Esatto. Ma dove ce l'hai? Sul ascolta, petto? Sul petto. 393. Sul culo te lo devi fare quel tatuaggio. Sul culo. Ma che te ne faccio uno in faccia, vicino alla tua faccia. 393. Animale. Mandami animale. Mandami questo tatuaggio. 393. 393. Ma potete far parlare la gente? Ascoltami. Ma hai parlato 10 minuti. Far parlare la gente. Che cazzo io non posso avere un tatuaggio di Mussolini sul petto? Ma la gente può andare in giro col Che Guevara tranquillamente. Io se vado al mare col tatuaggio di Benito Mussolini chiamano le forze dell'ordine, beh, le fanno allontanare, chiamano l'ospedale, invece Che Guevara nessuno dice un cazzo, Stalin certo, col cazzo certo, che è, nessuno dice un cazzo. Joseph, 393-71-71-701, ti ripeto, mandami questo tatuaggio. 393. Ti ho dato non mi interessa, cognome, mandami, ti ho dato il nome e cognome, fai il cellulare, mandami la foto. 393-71-71-701, ciao, ciao, vai a fare in culo. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Devi stare zitto perché adesso c'è la professoressa Ornella Mariani, che ne ha dette di tutti i colori. Mi raccomando, sennò quella butta giù il telefono. Facciamogli dire due cose, dai, ti prego. Dite due cose e via, dai. Dai, mi raccomando. Intervieni solo alla va fine, bene, diretto, va dritto, bene, dai, vuoi, promettimelo. Dai. Sì, professoressa Mariani? Buongiorno, signora Mariani. Signora Mariani, benissimo. Come stai innanzitutto? Bene, bene. Come siamo tutti in questo momento, incazzati. Incazzati e in mezzo alla merda, si può dire, no? Cioè da un certo punto di vista. Sì, sì, sì. L'unica soddisfazione è che sappiamo che la puzza di questa merda è parte da loro perché hanno paura. Adesso hanno paura. Ma chi ha paura, signora Mariani? Ma guardi, questa gentaglia che ne pensa una al giorno per vedere come annientarci. Cioè, gentaglia, lei si riferisce al governo Conte, non so, all'Europa, al governo Conte, a chi in particolare? Ma è tutto insieme, tanto ormai non c'è più differenza, lei l'ha visto, Conte l'altro giorno ha delegato in consiglio la signora Merkel a rappresentare l'Italia, pensi un po'. Dunque, lei li chiama come esattamente? Addirittura ma gentaglia, gentaglia. Dei cialtroni, sì. Addirittura sì, criminali in alcuni casi. Anche, certo. Criminali. Certo, però scusi, certo. Partiamo da un'altra cosa, signora Mariani, oggi il Papa che dovrebbe... Non me ne parli, guardi. Appunto. Io... No, per questo, come non me ne parli? Saranno tutti felici al palazzo perché ormai siamo dominati da questa lobby, quindi gioiremo con loro al governo saranno contenti molti. Cioè dalla lobby gay, dice lei? Sì, ormai cioè, il Papa, quello che dovrebbe essere il simbolo del Vaticano, la cristianità, la religione cattolica, se ne esce dicendo che è d'accordo con le coppie omosessuali. Cosa, lei che cosa vuole da questo contadino vestito da Papa che un giorno ha detto mica Dio alla bacchetta magica e quindi ha sepolto 2000 anni di convinzione di onnipotenza di Dio in 2 secondi. Ci ha pensato Bergoglio a darle il colpo. Ecco, ma questa lobby gay esiste? Da chi è rappresentata questa lobby gay? In Vaticano anche, immagino, ma al governo? Ma c'è qualche posto in cui la lobby gay non sia presente? Non lo so, me lo dica lei, signora Mariani. Dica anche lei, perché lei diciamo che è presente nei gangli. Un giornalista è molto più edotto di me. Ma gli omosessuali a lei non piacciono, mi pare di capire. No, a me non me ne frega niente, io non entro nella camera da letto di nessuno. Quindi non però me il matrimonio secondo lei è contro natura, loro sono contro natura, magari, non lo so. Ma trovo che la famiglia debba avere un uomo e una donna, poi tutto il resto lo chiamino, facciano come gli pare e lo chiamino come gli pare, ma non famiglia, non famiglia. Fino a questo punto mi sembra c'è veramente... un Bergoglio che dice insomma gli omosessuali hanno diritto a stare insieme, ad essere una famiglia eccetera eccetera, ma io è credo una cosa che mostruosa. Nessuno abbia negato agli omosessuali tutti i diritti che rivendicano, li hanno tutti. Prima avevano più ritegno e magari non lo sapevamo, oggi ostentano la loro diversità ostentano. Al punto tale che i diversi siamo noi e va bene anche questo, va bene tutto, ma io resto dell'avviso superato, anacronistico, che la famiglia debba avere un uomo e una donna, tanto due omosessuali devono sempre ricorrere a qualche pratica, ma un figlio non lo faranno mai. E se tutto il mondo fosse gay, ci sarebbe la fine del mondo, si potrebbe dire. Se tutto il mondo fosse gay, io sarei contenta di contare gli anni che mi mancano alla fine, perché veramente fra disgusto e amarezza credo che vivrei con grande perché un disagio. Perché un po' di disgusto davanti a un bacio omosessuale, lei lo prova un po' di disgusto? Io provo un po' di disgusto verso tutto ciò che è fuori dalla logica del pudore. E il Papa che dice sì alla legge sulle unioni civili lo trova riprovevole, lo trova scandaloso. Non ritengo che questo signore sia degno neanche di essere chiamato Papa. Papa, non è degno di essere chiamato Papa. No, però torniamo... Io mi sono fermato a Ratzinger, che vuole da me? Che vogliamo fare? Per me i papi sono questi, i papi prima di tutto sono alfabetizzati, noi abbiamo avuto formidabili questo è ignorante. Questo è un analfabeta, è un parroco di campagna, con tutto il rispetto per i parroci di campagna che fanno azioni meritorie, ma questo è proprio un impresentabile, un papa che dice che il whisky è meglio dell'acqua santa, ma che ne vogliamo fare? Ma scusi un attimo, però c'è un altro elemento fondamentale, mi sembra che lei abbia detto nei giorni scorsi due cose fondamentali, la prima è questa, no alle mascherine, lei è una sostenitrice assoluta del no alle mascherine. Allora, contro tutte le prescrizioni. Se lei va in strada, la multano. Signora. Io in questo momento le parlo dalla mia macchina, nella quale sono entrata e dalla quale uscirò quando avrò finito di chiacchierare con lei, senza mascherina. Ho capito, però se arriva un poliziotto la multerà. Cioè... Vedremo se il poliziotto mi multerà o se non sarò io a denunciare lui. Addirittura. Questa giostra deve finire. Se il governo vuole regalare a chi produce 27 milioni di mascherine al giorno un po' di denaro, abbia il pudore di farlo senza coglionare gli italiani. Non servono. Non è 10 centimetri di sfraccetto che ci preservano da qualcosa. Dunque è tutto una truffa, secondo lei, per far arricchire qualcuno? Assolutamente, è una dittatura truffaldina travestita. Ecco, questa gente che finge di difendere la tua salute e la tua vita per togliertela. C'è intanto una legge dello Stato che mi dice che devo avere il volto scoperto, la museruola non me la faccio mettere. Dunque figuriamoci che cosa ne pensi di Speranza, tu Ornella, cioè di Speranza, no? Sì, io dico che quando lo vedo ho la voglia di comprargli un panino, perché proprio c'ha la faccia del disperato. Vabbè, ho capito, però cioè è sempre il ministro della salute, tu non lo riconosci. Chi se ne frega, ma io di questa gente non riconosco niente. Non ne puoi più, non ne puoi più. Non riconosco nessuna legittimità, c'è un premier che non è stato eletto da nessuno, che rappresenta il nulla assoluto. Ma hai detto, hai detto che questa squadra di dilettanti e di incompetenti e di impostori per me non è istituzione. Io le istituzioni, caro Giuseppe, le ho sempre rispettate ed intendo continuare a rispettarle. Però hai detto quando che abbiano una solvibilità morale. Ma hai detto che non bisogna pagare le tasse? Hai detto che bisognerebbe fare una rivoluzione? Certo, di fronte a tutto questo, un governo che ti tiene prigioniero, non ti fa lavorare, che consente e favorisce tracolli economici, fallimenti, e disoccupazione e quant'altro. E i clandestini. Strozzino pure le cartelle delle tasse, l'unica risposta che puoi dare è obiezione, non pagate. E i clandestini che entrano, e come dici tu, che cosa hanno fatto? Quelli non ne parliamo, quelli servono perché poi arriverà un momento in cui vorranno una guerra fra ultimi. Credo che ieri ci sia stata una manifestazione di nigeriani a Roma, tutti assembrati ovviamente senza mascherina, tutti rigorosamente senza mascherina. C'è dietro questa roba qua? Chi c'è dietro questa regia dei clandestini che vogliono? Bisogna chiederlo Soros. A Gentiloni, che ha ricevuto Soros senza darne conto. Che per te è un criminale, perché per te è un criminale Soros. Soros è un criminale internazionale, non per me. È inseguito signor da un mare Soros, di ordini di cattura, ci sarà una ragione. Signor è Soros. Un benefattore solamente per la sinistra italiana. Allora, cara Ornella, è una grande discussione con te. E Parenzo, stoccata finale parenziana, che ha sentito tutto questo con grande pazienza, devo dire. Vi avete messo la museruola. Quindi, Giuseppe, ecco, ho piacere. Vi avete messo la museruola. Questa buonasera, è una povera svalvolata. Svalvolata. È una povera svalvolata. Ma contestala. No, cosa c'è da contestare? C'è un delirio. C'è da dire che è una svalvolata, si deve curare questa svalvolata, curare! Marcello da Perugia, ragazzi, la dottoressa Mariani. L'ho lasciata parlare, hai fatto dire perché qualunque cosa senza interromperla. Le avresti impedito di parlare. Non vedo nessuno. Ma se uno non si vuole mettere la mascherina, non se la mettesse. L'hai accarezzata, le hai fatto dire qualunque cosa, senza dire che è una follia non mettere la mascherina. Per sé, ma soprattutto per gli altri. Marcello da Perugia. Soprattutto per gli altri. Marcello, dimmi. Egoista schifosa che è. Marcello da Perugia. E lui vai. Niente, lui stava zitto, la tetillava. Ah, bello, non mette la mascherina, grazie per il contributo. Marcello, dimmi. Ti devono processare la nuova Norimberga, altro sì. Che. Sì, Marcello, sì, a te. Dimmi. Non c'è Marcello, non c'è più nessuno fermi segue tutti. Più questa trasmissione. Fermi tutti, fermi. Per fortuna. La Zanzara. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Io io sulla questione delle seghe devo dare ragione a Cruciani. Lavoro in un magazzino da solo e a volte capita, forse un po' per noia, che mi siedo davanti al computer, preparo un fazzoletto, apro un bel porno e parte la sega. E poi lavoro pure meglio. Farsi una sega al lavoro è una delle cose top da provare assolutamente. E poi luce si impunto, la bellezza è quando esci e stringi la mano a tutto, specie a chi ti sta sul cazzo. Oppure quando vai nel bagno e ti fai fare una bomba da una ragazza e quella quando esce bacia tutti. Mamma mia, goduria assoluta. Luciano, sei una testa di cazzo, ma hai ragione. Il sesso occasionale è fantastico. Scopare una tipa di cui non si conosce il nome è fantastico. Motori Italia, un partito, un nuovo soggetto politico. L'Italia ha bisogno di un nuovo soggetto politico come un uomo ha bisogno di aria per respirare. Noi dobbiamo ancora sapere, stiamo ancora aspettando il fatto di un certificato in cui si affermi che la persona è deceduta esclusivamente per Covid-19. Ancora non c'è un certificato. Allora, l'ultima notizia, il Fondo Monetario Internazionale ci vuole imporre il lockdown. Si sono finalmente scoperti. I poteri forti ci vogliono distruggere l'economia. Ora adesso basta un caso, una persona che non c'entra niente, muore per un'altra patologia, tampone post mortem positivo, è morto per Covid-19, addirittura una persona era annegata, hanno fatto il tampone post mortem, è morto per Covid-19. Ringrazio tutti quelli che si iscrivono, non riusciamo a rispondere a tutti quanti per le iscrizioni, ne arrivano centinaia e centinaia al giorno. Sì, c'è un partito che nasce, quello dell'ingegner Negri. L'ingegner Negri, ma evviva, Motore Italia. L'emblema, il, come dire, no, il titolo di questo è nuovo un delirio, partito non è, il è tema, questo: è un non esiste un certificato di una persona morta per Covid, dice l'ingegner Negri. E questa è l'unica trasmissione, caro Parenzo, in cui queste persone possono esprimersi. Ma pensate, ma non è un dovrebbe merito. Dovrebbe essere qualcosa che ti fa. Non è un merito. Ma no, come non mi no, fa, certo, assolutamente. Non mi fa. Marcello da Perugia. Non mi inorgoglisci un altro mi se scrive. Tu mi dicessi, questa è l'unica trasmissione in cui parlano i premi Nobel. Dici cazzo, però è importante. L'unica trasmissione allora, no. In cui si leggono anche delle mail come queste. È possibile che non parli di quello che si è segato durante una riunione Zoom? Mamma amico parlato, mio, ma è tutto ieri, ne abbiamo parlato. Purtroppo. Quella però è la realtà, devi ammettere. Che lo stesso Freccero sarà rimasto colpito da quella vicenda, è la realtà, è la realtà, la sega via Zoom, dai, naturalmente sega. Dal punto di vista estetico e degli ascolti naturalmente una grande panacea, dai, è fortissimo, no, certo dai. Questa notizia si somma a questa notizia straordinaria della ripresa dei contagi, quindi bisogna a questo punto selezionare le notizie naturalmente. No, ma dico la notizia di uno che si sega via Zoom. È la realtà, no, Freccero, la realtà. Ho proposto immediatamente questo format alla Rai. Non mi hanno voluto ricevere appena ho mandato via mail. Qual è il format? Naturalmente di avere tutti gli anchor men della Rai che facevano la stessa cosa, naturalmente. Proposto un format molto semplice. Alla fine del TG1, il mezzo boost, naturalmente, anziché fare i consueti saluti, si fa questa prugnetta naturalmente in diretta. Mi sembra evidente come fanno i grandi network europei, no? I grandi network del mondo, la BBC, la CNN, lo fanno tutti ormai come momento di saluto, naturalmente la masturbazione in diretta. Ma non è vero, 30. Non è vero, funzionerebbe moltissimo naturalmente. Comunque ragazzi, Roberto moltissimo. Speranza, perché guariremo ma dai perché giorni più duri ma ce l'hai, a una questo? Nuova idea di salute, ma una esce nuova domani. Idea di salute, tocchiamoci i coglioni ti tutti quanti, le riforme che ha messo in campo, vergogna, mi sembra interessante. Un libro, Feltrinelli durante la pandemia, il ministro, qual è un altro ministro della salute in Europa che ma scrive un libro che durante saggi, la pandemia? Ma sicuro, ma qual è chi, il crimine? Chi? Ma dov'è il problema? Stai descrivendo come fosse una cosa così strana. Mamma mia, dimmi. Ti brucia perché venderà milioni di copie, ma per quello ti brucia, milioni non credo. Marcello, eccomi qua. Dimmi Marcello. Pronto? Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Io ti dico solo il finale. Per me sei un incosciente. Io sono incosciente, sono un grande professionista. Tante persone che me lo dicono, per cui figurissima. Sì. E stai condizionando una massa di ignoranti. Esatto. A fare cosa? Pensare quelle cose nei confronti del mio. Terribile. Ma tipo che cosa? Non ho capito. Tipo che cosa? Spiega. Io non ho mai detto che bisogna andare senza mascherina. Innanzitutto, Marcello, innanzitutto devi farti sentire. Dunque, spostati da dove sei o metti il telefono. Meglio di come c'è. Ce l'ho qua. Ho capito, amico mio, non si sentiva un cazzo. Dimmi. Allora, ti dico il finale, sei un incosciente. Però da una parte sei un professionista fantastico, perché hai una trasmissione interseguita. E allora, siccome tu sei una persona intelligente, credo, devi sapere che le tue cose devo fare? Che cosa devo fare? Spiegami. Le tue affermazioni Per esempio, quali? Spiegami quali. Ma spiegami quali. Non sei in grado di dire quali. Questo è il punto. Ma te lo spiego sul Covid, sul sistema delle mascherine. Certo. Sta mettendo in evidenza degli ignoranti che incitano a non seguire le direttive. Ma chi l'ha detto? Ma io non ho mai detto che non bisogna seguire le leggi sulle mascherine. Do voce a chi pensa che la mascherina sia una buffonata. Qual è il problema? C'è una differenza tra dare voce a tutti e seguire quello che dicono alcune persone. È la quantità di voci che dai. Tu sei fortissimo, sei un anchorman fantastico. Devi capire che quello che dici tu lo fanno milioni di persone. Posso dirti, Marcello, ti rispondo in questo modo molto pagato, senza mandarti a fare in culo, perché non è il caso. Ma mi ci devi mandare? No, non ti ci mando. Se voglio, ti ci mando. In questo caso, non ti ci mando a fare in culo. Ti dico in maniera molto semplice: a me di essere di esempio per qualcuno non me ne frega. Ma non devi essere esempio. No, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega nulla. No, questa trasmissione non deve essere esempio per nessuno. Non devi essere esempio, allora che vuoi? Ma allora cosa vuoi? Non penso di avere nessun potere didattico. Non me ne frega un cazzo. Ma no, è una presunzione. Chi lo pensa è presuntuoso. Non è così. Gianluca da Bologna. Ti abbraccio, Marcello. Gianluca da Bologna. Molto semplice, ho un format da proporre al signor Freccero. Un format bellissimo. Tutto orecchi, Freccero. Sentiamo. In cui i conduttori di questa disgraziata trasmissione un giorno si scambiano i ruoli. E quindi abbiamo un Cruciani che parla di numeri di casi, di Covid, rotture di cazzo. E abbiamo un Parenzo che invece va col Brasile. Parlare di squirting. Ma come si fa? Che programma è? Ognuno deve essere la realtà. Ognuno deve essere se stesso. Tu, ad esempio, potresti fare il coglione, Alessio, abbiamo una trasmissione che si chiama Il Coglione, naturalmente. Alessio da Ibiza, vai Alessio, dimmi. Cruciani, amico mio. Dimmi Alessio. Ciao, ti racconto come si sono inventati di continuare a fare festa con Ibiza. Ma cosa fa Ibiza questo qui? Fa il lavoro suo, farà anche lo spazio, non lo so. Non cominciamo questa storia. Io mi confondi sempre con altra gente che ha chiamato. Ma cosa fai a Ibiza a ottobre? A fine ottobre a Ibiza? C'è un sacco di gente che abita a Ibiza. È stata una stagione disastrosa. Alessio, ogni volta che chiami non si sente una sega, amico mio. Dai, su, forza. Dai. Ascolta, praticamente danno il punto di ritrovo per la festa in un parcheggio. Sì. Tutta la gente va lì, e sono obbligati a lasciare il cellulare in macchina, e dopo ci sono le navette che ti portano alla villa dove c'è la festa, con la sicurezza a 100 metri, e quando arriva la polizia la sicurezza avvisa di spegnere la musica, e quindi qua non ce ne frega un cazzo, continuiamo a fare festa. Cioè tu continui ad andare a feste con quante persone? Bravi irresponsabili. Quante persone? 150, 200, perché belli irresponsabili, evviva. Irresponsabile. Abbiamo fatto una stagione da fame. Ma ha ragione Alessio, perché dici che ha ragione sto pazzo. Tutti questi vecchi bastardi che ci hanno voluto affamare tutta l'estate, quando si poteva lavorare un po', a me sinceramente non me ne frega un cazzo. Cioè? Se devo morire muoio. Se me lo devo prendere il virus me lo prendo, ma io di morire non ho paura. È la filosofia di un egoista. Non me ne fotto un cazzo degli altri, specialmente di questi vecchi bastardi bizzenchi che ci hanno votato contro tutta l'estate sono egoista, non me ne frega un cazzo. Sei egoista, però lei anche la libertà degli altri. C'è un conto essere tu. Mia nonna non vive qua, quindi se io dovessi frequentare mia nonna magari non lo farei. Vedi che sei un egoista e non te ne frega nulla di tutti gli altri, però Zero, meno di zero. Bravo, ragazzi, è bravo, così, bel esempio, cioè, sei. Come così? No, non è così, non dovrebbe essere così. Una società non dovrebbe ragionare così. Ma se lui ragiona, ma questi bastardi, quanto cosa gli è interessato questi bastardi quando votavano quest'estate? Cosa gli è interessato di noi? Ma che cosa avrebbero dovuto fare? Scusa, cosa avrebbero dovuto fare? Lui sta parlando della chiusura, di molti locali, della chiusura di molti locali ai Ibiza e non solo ai Ibiza, nel resto del mondo. Perché non se ne fanno a casa loro? Perché i vecchi che prendono una pensione non se ne fanno a casa e basta? Ma cosa c'entrano i vecchi? Il problema nostro non sono mica i vecchi, sono i coglioni come te. Comincia a levare dal cazzo tutti i vecchi dei pronto soccorsi, comincia a levare dal cazzo tutti. Ma come ragioni? I nostri vecchi sono quelli che ti hanno messo al mondo, purtroppo. Questo sono. Perché se c'è l'epidemia? Perché ti hanno messo al mondo a te. Questo è l'errore che hanno fatto i nostri vecchi. Che se metti a casa. Io passo davanti ai bar adesso, pieni così di vecchi che bevono fino all'ora che possono stare, in cinque al tavolo, però che bevono senza mascherina, si parlano, si sputano addosso. Statevene a casa! Scusami, dai, Alessio, ma queste feste, 150-200 persone, che succede? Di tutto, naturalmente. Ma alla fine poi arrivano sempre gli sbirri. È lì 2-3 ore finché dura. E poi alla fine arrivano sempre. Ma che succede? 2-3 ore? Vabbè, musica, droga, droga. Si scopre, va. Giù il minimo sindacale, diciamo. Il minimo sindacale. 2-3 ore insomma di feste con 150 persone, qualcosa succederà. Però tu mi... sono feste che normalmente ci stai 12-13 ore, adesso arrivi alle 6, già mezzanotte e mezzaluna c'è qualcuno che ha chiamato gli sbirri, perché poi quando c'è silenzio, sai, ci vedono le luci e tutto. C'è qualcuno arrivano e che succede? Tutti scappano, tutti? Si spegne la musica, sì, alcune volte sono uscito dal retro, se no si spegne la musica, loro non hanno mandato, non possono entrare. Quindi sono veramente dei banditi. Banditi, sì, gringos. Ma non ci dovete rompere i coglioni. Ma scusa, nessuno di queste persone si infetta. Ma con tutte le fighe che abbiamo leccato, Cruciani, con tutta la vita promiscua che abbiamo fatto fino adesso. Ammalati. Allora adesso sarà il COVID. Ma se fai ammalare gli altri sei uno stronzo. Sono uno stronzo, va bene. Allora è cruciale in tutta la vita che sei uno stronzo. Fermi tutti, grazie Alessio. Ciao, ciao, ciao. La Zanzara. Volevo dire a quel cazzo di ritardato mentale di fratellio, come minchia si chiama quel coglione di merda romano, che il cuore è un cazzo di muscolo deficiente, quindi se prendi gli ormoni, ti gonfi i muscoli, ti gonfi anche quel cuore di merda che c'hai, finché non ti esplode come un palloncino di merda. Ok, coglione? Volevo chiamare perché sono un po' indignato per il discorso del licenziamento di quel giornalista della CNN. Sono d'accordo con voi perché secondo me un po' tutti ci fanno le seghe, dai, a lavorare, chi in bagno. Ma certo, ragazzi, certo. Ma certo. E rovinare un povero personale, una povera persona per una cagata del genere, secondo me è da bastardi. Magari probabilmente le seghe se la fa anche chi l'ha licenziato. Ma sì, ma sicuro al 100%, solo che non ha avuto la sfiga che in quel momento non funzionava, cioè l'affare è continuato ad andare avanti e è finita lì. Cioè, solo basta. Paesi bacchettoni come gli Stati Uniti e anche l'Italia, sicuramente sarebbe successo anche qua. Funziona così, perché secondo me dovremmo avanzare almeno da quel punto di vista. In realtà siamo anche regrediti, perché nell'antica Grecia, tra virgolette, leggevo che la masturbazione era una cosa normalissima. Ma sì, ma uno sospeso, eccetera, semplicemente perché era come stare in ufficio e farsi una sega in bagno, quello ha sbagliato a lasciare acceso il Zoom, quello che era, dai. Giovanni da Firenze, vai, Giovanni. Buonasera, ciao. Io volevo approfittare, visto che in questo programma si parla di Fregna, no? E voi fate un servizio pubblico in tal senso. Beh, io sto andando adesso da Firenze a Bologna, ok? Dimmi. Una donna che non vedo da 2 mesi. Sì, praticamente non so cosa fare il corpo. Cioè, avete un consiglio da darmi? Come me la devo fare sta donna? Cioè, come hai sempre fatto, amico mio, senza nessun problema. Cioè, nel senso, senza baciarla, solo a pecora, ma che dici? Ancora con queste stronzate che ti dicono, ma è una puttanata, dai, è una puttanata, fattela come te la sei sempre fatta, cioè, ma di che parliamo? Cioè, ma veramente vuoi usare delle precauzioni di quelle stronzate che ti dicono i sessuologi o che ti consigliano? Almeno la precauzione del preservativo, quella sì. Ma quello non c'entra niente col Covid, cioè, quello non c'entra nulla col Covid, Giovanni, da quant'è che non la vedi? 2 mesi questa qua, ha fatto qualche test? Zero test, lei e niente, ci rivediamo dopo. Ma sì, scopate in tranquillità, senza problema. Scopate in tranquillità, senza problema. Non vi preoccupate. Fatti un sierologico almeno. Ma quale sierologico? Che tanto comunque non ti copre per oggi. Cioè, Giovanni, scopa allora, tranquillamente. Oggi aspetta, senza... perché qui ma il contagio corre. Ma che deve aspettare? Questo deve... Non lo vede da 2 o 3 mesi. Meno, magari guardati un film, rilassati un attimo e poi quanto dopo dovrebbe riprenderai aspettare? La tua quanto normale dovrebbe... attività. Ma... Non so, magari ti fai un tampone sia tu che lei e riprendi la tua attività. Però. Ma ragazzi, non diciamo cazzate, non lo so, Giovanni. Ma apri, guardati ciao, la 7, guarda. Ciao. In collegamento non so da dove, se dall'Italia o da Chiasso, Stefano del Maxim, ciao, come stai? Ciao, grandissimo, sto incazzato come una vipera. Che è successo? Vi hanno chiuso? Hanno chiuso, ma hanno chiuso anche la residenza oltre al bar. Certo, allora infetti nei bordelli zero, ovvio zero. La prostituzione non è stata vietata. Certo. Hanno chiuso le camere dei locali erotici. Da noi noi dal 3 luglio facciamo il tracciamento di tutti i clienti che entrano. Sì, molto più dello Stato, molto più dello Stato italiano. Per nome, cognome e numero di telefono verificato. Funziona, ma chi è il brusaferro dei bordelli? Ma certo, chi è funziona qua? Molto più il tracciamento del Maxim che il tracciamento dello Stato italiano, quello è sicuro. Figurati. Avendo chiuso la residenza, tutte le ragazze sono sparse adesso in giro in appartamenti in Italia. Io vivo nella mia bella casa, dove non ho non sono in un condominio, non ho questo problema, quindi ci sarà qualcuno adesso in Italia che si troverà con una vicina di casa che fa la prostituta, con tutti i guai che comporta avere una vicina di casa del genere. Non solo, le altre sono andate guai negli per lei, appartamenti per questa povera ragazza. No, spiegami una cosa, Stefano, scusami un attimo, da lunedì voi, cioè dall'altro ieri, un provvedimento immagino cantonale della Svizzera a Zurigo tu puoi andare tranquillamente in un bordello. Tranquillo. Tutto a posto. Con le mascherine o senza mascherine? Tutto a posto, senza mascherine. Senza mascherine, tu capisci la follia. Tra l'altro, da noi i dati erano verificati, quindi documento alla mano, telefono, te lo faccio squillare, se no non entri. Cioè tu invece oggi Maxim invece è chiuso, cioè tu vai a Chiasso, ce ne faremo una ragione, dai, ce ne faremo una ragione. Ma perché devi far perdere soldi alle persone? Rispetto ai ristoratori non mi sembra una priorità. La stessa linea d'onda nostra. Rispetto ai ristoratori, ai bar, ai commercianti, non mi pare che questo qui che fa questa fabbrica di prostitute, non mi pare un problema il fatto che sia chiusa. Mi dispiace per le ragazze, mi dispiace. Controllavamo tutto. Sì, tracciamento. Le prostitute sono anche chiudono. Certo. Adesso il problema diventa perché adesso la fabbrica delle prostitute qua. Adesso non c'è più un controllo. Senta, non c'è un cosa molto più grave di questa che si chiama pandemia. Veda di indennizzare le sue ragazze, dia loro dei soldi. Indennizzare le ragazze. Dia la cassa integrazione alle sue ragazze. Ma che cassa integrazione la prendiamo noi? Visto che lei, loro visto, sono libere professioniste. Visto che ecco, la truffa, ecco il problema. Libere professioniste non riconosciute. Tu come non riconosciute? Questo business, in Italia non tu che hai creato questo business, daschi pure i soldi della cassa integrazione. Vergogna. Perché ma che vergogna? Tu, sono un dipendente. Tu ti incassi i soldi della cassa integrazione. Le ragazze su cui ma vive fanno il tuo lo stesso le prostitute, le non lo prendono una lira. Ma tu dovresti detto dare. Che non prendono una lira? Ma non è vero. Perché dici questa stronzata? Ma cosa ne sai? Perché tu sei. Tu non sei è vero, due non è vero volte, che non prendo una lira. Due volte uno schifoso. Se hanno pagato le tasse fino a ieri, hai guadagnato fino a ieri milioni di euro grazie a ste ragazze. No, no, no, non te l'accetto. Devi tornare indietro. Se hanno pagato le tasse fino a ieri, esatto, prendo l'indennizzo. Gli indennizzi, perché sono libere professioniste. Ma da chi li riconosce? Ma chi li riconosce sto lavoro? Lo Stato svizzero li riconosce. Lo Stato svizzero, e in più si prostituiscono nelle case, probabilmente in Italia, dove abitano, no? Ma la maggior parte è Italia o qualche comunque posso dirti svizzera. A me questo qui non mi fa pena, posso, mi, fanno, no, mi, ma mi dispiace pena, per gli altri, guarda, imprenditori italiani onesti che inventano, lavorano, fanno ricerca scientifica, i grandi imprenditori che ho conosciuto, ma che di Confindustria eccetera, è questo qui non è un imprenditore, ma come non è un imprenditore. Fai il manager di un'azienda, certo, fai il manager di un'azienda che ha messo 20 ragazze belle lì dentro e gli fa pagare per avere le loro prestazioni. Allora siamo in collegamento, scusami Stefano, ce l'avranno in qualche bottega da qualche altra parte. Prima di tutto, allora siamo in collegamento con forse una delle più richieste del Maxim, per capire l'hai che fine abbia eletta Misticino 2019 grazie a un sondaggio del forum Gnocca Pro. Gnocca Pro, sì, ottimo. Daria si chiama, eccoci qui, Daria Romena, se non sbaglio. Ciao amica mia. Ciao. Dove sei finita, Daria? Dove stai adesso? Dove operi? Adesso sono a casa in Romania, ovvio. Ah, sei a casa in Romania, sei tornata in Romania? Ovvio. Oh, ma come fai a campare adesso? Ti prostituisci lo stesso? Ma guarda, sto aspettando che riapre il Maxim. Cosa posso fare? Non ho altra scelta. Sì, ma beh, tu ti controllavi, ti controllavi sempre comunque, non eri una... Ma certo, per questo che paghiamo le tasse, casa malattia, tutto, cioè per andare a fare i controlli e tutto quanto, quindi... Poi soprattutto ho fatto anche il tampone per coronavirus, sono uscita negativa, anche quello per vedere se ho avuto in passato, sono uscita negativa. Senti, anche se sono stata, anche se sono stata in mezzo a tutte le persone che vengono da Bergamo, Lodi, Milano, certo. tutti intorno. Scusami Daria, ma tu adesso in Romania stai continuando comunque a fare la prostituta o no? No, in Romania sto ferma. Stai ferma, capito? Cioè questa signora, questa signora qui adesso non ha lavoro, ferma, caro Davide, capito, ti dovresti vergognare. No, bisognerebbe trovare un lavoro normale. Ho pazienza. Tanto se voglio posso fare la richiesta di prendere soldi anche se non lavoro, perché tanto io lì lavoro con contratto, quindi... Cioè noi stiamo lanciando un messaggio devastante. Stiamo lanciando un messaggio che è una lavoratrice di quel settore lì, se ritorna in Romania addirittura per fortuna viene pagata, quindi evviva la prostituzione. Questo è il messaggio che stiamo lanciando. Legalizzato. Vedi che almeno Daria io sarei perché Daria si facesse la sua cooperativa di prostitute, ma vai a fare non che fosse ma allora perché non che fosse organizzata allora, da questo giudice fare la cooperativa il di problema non è questo il problema non è questo la cosa importante che viene fuori da questo piccolo spaccato di quello che è successo al Maxim, dove Stefano è il manager e Daria è la prostituta. Manager è questa. Non Daria, è manager, la tua specialità CEO, qual è? Non è un manager, non è Marchionne! Non è Marchionne! Aspetta! Dai! Daria! Qual è la tua specialità? Che tu non sei mentana, cosa vuol dire? Certo. Basta la voce, basta le ali, se no alzo la voce anch'io. Sì, Daria, Marchionne. Il manager. Mi sa che il signore che sgrida così tanto non ha scopato da tanto tempo. Signora Daria, mi perdoni, non ci si mette anche lei. Io sono dalla sua parte e sono per aiutarla anche in qualche modo. Se vuole trovare un altro lavoro, se posso, ovviamente. Signora Daria, vuole continuare a fare la pignotta? Sì. Ma certo, ma ti non piace vedo molto. L'ora che apre Max. Ti piace molto fare la butta? Ti piace molto io prendere? Lo faccio. Certo, io lo faccio prima per piacere e secondo cioè, per i soldi. Cioè tu prendi quindi... cazzi per piacere, fondamentalmente, prendi certo. cazzi per piacere. Qual è la tua specialità? L'anale, la bocca? Mia, la... Qual è la tua specialità per cui sei conosciuta al Maxim? Qual è? Ci avrai una specialità? Direi un po' di tutto tranne anale. L'anale non lo fai, uno però va a puttane perché uno va a prostitute, perché non fa l'anale? Io adesso vado ai matti, ecco io lo faccio allora con, so, con una fidanzata pubblico. Con una moglie, con una ragazza non a pagamento, possibile mai che uno va a puttane e uno non scandalo. Fa l'anale? Ma questo mi pare uno scandalo, mi pare uno scandalo questa roba qua. Daria, del Maxim non fa l'anale, cioè uno va a puttane, paga e non ti dà il culo, ma porca puttana si potrà incazzare uno o no? Cioè uno va lì per fare delle cose che non fa. Qualcuno che fa l'anale, scegli qualcuno che fa. Senti l'altro, senti il manager, quello che chiamava il manager, senti l'altro. Sì, no, se puoi incassare per niente una ragazza che non fa anale, non vuol dire che non è prostituta. Il scusa, che ti fa un bel pompino, una bella scappata. Ma hai ragione, perfettamente. Però io per me, cioè, per quello che mi riguarda, se vado in un bordello e uno non fa l'anale, mi incazzo. Però lasciamo perdere questo argomento. Te la indico io quella che fa l'anale. Sì, prima o poi vedrò. Responsabile controllo qualità. No, non nego, ci sono anche le ragazze che fanno anale. Non c'è dubbio, questo. Sì, ma non ce ne frega niente di questa conversazione. Fate quello che volete. Ora per fortuna è chiuso, andate a fare il culo. Scusa, un'altra cosa. Un'altra cosa. Senza lavoro, guarda. Un'altra cosa che viene fuori è questa, che in realtà, vedi, la legalizzazione della prostituzione, Daria sta tranquillamente in Romania e beccherà il sussidio, chiamiamolo così, il sussidio di disoccupazione dello Stato svizzero. Questa è la legalità, questa è la legalizzazione. Parenzo, italiani, no, ancora non è bello, finito, ferma. Ciao, Stefano, tutto legale, quanto tempo pago le tasse, pago casa malattia, tutto quanto, mi sembra giusto che sono come una disoccupata, quindi giusto, prima o poi, Daria, prima o poi dallo sto culo, dai, su, ferma là. Ciao. La Zanzara. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it. Oh Cruciani, ma qui a Firenze, a Peretola, a me e alla mia compagna ci hanno chiuso il locale per scambisti, è un problema perché ora come si fa? Cioè, se vado in un glory hole, come fa a farmi fare pompini con la mascherina? Boh, speriamo bene, perché qui è un grande problema. Cruciani, sei pronto per fare il testamento? Dai che ci stiamo vicini, con la media di contagi a 10.000 al giorno, fra poco ti senti a te che dice che vuoi trovare un... e fa subito un testamento, all'anima che ti è morta. She was in rage. Se voi invece di stringere il culo, che poi sono i muscoletti abbiamo delle... Non sono muscoletti, sono terminazioni nervose. Nella zona anogenitale, se noi li stringiamo e ci irrigidiamo col pensiero e con il corpo, non facciamo in modo che il pistillame entra. Quindi, dolore, rilascio. Al primo segno di dolore, espiro. Rilascio, abbandono, allento. Dolore. Dolore allento, dolore, apri il culo, con la mente devi pensare di aprire il culo, perché se il culo è condotto alla mente, è connesso, il tuo caso, lo spirito sicuro. E la mente determinano sicuro. Anche il canale sessuale, il tuo caso, che sicuro. È il cucchiacame e il buco culamico, ecco, quindi sono connessi, la mente e lo spirito di dolore, vorresti stringere invece Gianluca, provincia dell'Aquila, intanto fra poco Paolina Saulino, una squinternata di primo livello che parla come una mezza matta e pensa di essere un artista. È una grande performer, non rompere i coglioni, regina dell'Instagram. Ma vaffanculo, vecchia sarai tu, vecchio Gianluca, la provincia dell'Aquila. Devi fare silenzio e inchinarti all'arte dialettica di Paola Saulino. Di scemenze che Gianluca dice la provincia dell'Aquila. Buonasera. Mamma mia. Buonasera. Niente, mi chiedevo come fosse possibile che questi trasmissione così, tipo Parenzo o qualcun altro che pensano che quei cinghiali possano essere messi in qualche posto dove non danno fastidio. potevano essere adottati. C'era la Brambilla, gli animalisti. No, nessun sovrannumero, li avevano alcune associazioni di animalisti. Si erano offerti di adottarli, non lo so dove, ma si erano offerti di portarli via e di adottarli. Quindi c'era una soluzione. Via dove? Ma se la prassi è quella, non c'è nessuna prassi, tant'è che ci sarà un procedimento giudiziario per vedere se hanno usato, se hanno esperito tutte le possibilità. Vedrai. Ma io, a me non me ne frega, non sono, voglio difendere i cinghiali. Certo, vedere quella scena, l'ho vista al TG3 regionale con i bambini che erano spaventati. Una scena pietosa e quella gente. Una scena pietosa. Uccidere quegli animali e il pubblico in quel modo. Il pubblico in quel modo è stata una scena pietosa. Lasciatelo dire da uno. Lasciatelo dire da uno che non è né vegano né vegetariano. Quindi guarda. Ciao Gianluca, ciao. Pietosa. Pietosa. Saulino con noi, eccoci qui Paola. Mamma mia. Come andiamo amica mia, come andiamo? Benissimo amico mio, tutto bene, in realtà sto appena venendo da una litigata a Roma, mi sono litigata con un tizio in un bar, con il proprietario di un bar, vabbè, ho fatto proprio un sipaglio. Ma che è successo? Spiegami. Ho lanciato tutto coso all'aria proprio. Guarda, ma perché? Che è successo? Io ho documentato poi con una diretta sul mio profilo Instagram quanto è avvenuto. Che è successo? Ma guarda, in realtà è stata una cosa molto semplice. Mi ero seduta a un bar, avevo ordinato una spremuta d'arancia e un caffettino. Sì. Allora, quando mi sono resa conto che avevo cambiato borsa e non avevo portato il portafogli con me, sì, avevo chiesto al tizio del bar, che non era la prima volta che ci hanno detto: guarda, mi sento veramente mortificata, non so per mi è sfuggito al mio controllo, non ho portato la sì, borsa dove era il sì, portafogli, fammi ritornare domani, ti pago tutto. Poi ho detto, sono entrata in taxi, sono andata a casa, ho preso il portafogli, sono ritornata e ho pagato. In tutto questo lui, prima che me ne andassi, la prima volta mi aveva estorto il numero di telefono. Ho detto, abbi bontà, dammi solo il bigliettino del numero di telefono, perché lo vorrei avere con me, insomma, perché poi dopo l'avrebbero riutilizzato. Questo qua si è cominciato a innervosire, ha fatto, ma non lo trovo più sto numero di telefono, chissà chi l'aveva dato. Intanto già avevo ricevuto una telefonata anonima e ho detto, poi ho cominciato a dire un sacco di parolacce, vecchio di merda, fin quando lui ha detto la prossima volta paghi, io che ero tornata a pagare, avevo preso pure un altro caffè, ho lanciato tutto coso pallare, tavolino. Ma che matta, ma è una matta, dai, è una povera squinternata. Ma che una cosa, Parenzo? Sei una povera matta, sei una... Io già lo pensavo prima, dopo questo racconto ne ho la conferma. Sei una Paola, le tue parole definiscono un tono che manifesta un trend di svalutazione della donna, quindi la prego di terminare questo trend, perché, ma non per me, ma perché depone proprio male per lei in questo periodo storico. Allora io voglio capire una cosa dalla signora Saulino. Innanzitutto una cosa, torniamo indietro, siccome è la prima volta che la Saulino viene qui in questa nuova stagione della Zanzara. Ma la Saulino è quella che si è messa completamente nuda tra Serie A e Fantacalcio, e lei ma non anche c'entra niente, dai. Ma che ne sa lei di calcio, Parenzo? Ma stiamo un po' zittino. No, ma mi hanno segnalato questa cosa qui, Paola Saulino completamente nuda tra Serie A e Fantacalcio, amo Zanetti, Messi meglio di Ronaldo. Ma non lo so, ma avrà fatto una performance. Sì, una performance. Sarà un'intervista. Messi mi piace più di Ronaldo. E si è messa posso nuda. Avere un ma che gliene frega? E si è messa nuda. Ma allora sono innamorata di Capitan Zanetti. Qual è il punto? Quindi, Parenzo, ma argomenti. E si è messa nuda. Ma argomenti cosa? Ma scusa, ma una che si mette nuda. Le tue parole semplicemente con un trend di svalutazione del genere femminile. Ma è una squinternata. Allora, fermo, zitto un attimo. Voglio capire una cosa. Primo. Allora, mi riferisco, no, che durante nei mesi scorsi hai rilasciato un'intervista in cui hai detto che sei stata pagata per farti fare la pipì addosso, è così? No, io non ho mai ricevuto pipì perché a me mi fa schifo, era un tizio che amava essere pisciato addosso, siccome per me il pisciame... Scusami, no, per essere pisciato addosso, per molto diverso, per avere pisciato addosso a qualcuno. Scusa, sì, io sono molto tradizionale, molto Giuseppe, tradizionale. Lo sai nel senso. Sì, sì. Pertanto, siccome io francamente non valuto il pisciame un argomento sessuale, perché per me la sessualità è in altre manifestazioni. Il pisciame non è un elemento sessuale, secondo te? No, di fatto lui mi pagava 500 euro ogni pisciame, ma Dio buono, ogni volta che andavo nel cesso e pisciavo dicevo maronna quanti sordi che sto perdendo, me la volevo trattenere perché ogni volta erano 500 euro. Ma quante volte l'hai fatta alla fine in tutto? Pensa che ma con questo tizio qualche volta, poche volte, fin che lavoro è? Conto. Ma non è un lavoro, è un fatto che capitava, era una cosa. Ma è normale. Che razza di attività. Ma scusa, mi posso dare, lavoro, posso dare ragione? Avendo a che fare. Posso dare ragione a Pa? Che un tizio mi chiedeva. Esatto. Ma che razza di roba è? Poi ho terminato perché ho deciso che non volevo più rapportarmi con queste persone che secondo me sono dei falliti. Punto. Però posso dirti una cosa, Paola? Allora, secondo me hai fatto benissimo, perché se qualcuno vuole del pisciame per 500 euro, ogni cosa ha un suo valore, e pisciare addosso a qualcuno per 500 euro, secondo me, è una cosa che bisogna fare. Se qualcuno a me chiedesse, una donna, sì. Allora posso dirti una cosa, posso lanciare qui una cosa, se qualche donna vuole per 500 euro, ti giuro, che io le pisci addosso, io lo faccio tranquillamente, 500 euro. Tu sei una persona intelligente, questo era innamorato del mio pisciame, la cioè, chiamava ti fai la pagare per adesso dorata, urinare sulle la persone. La fiorellina dorata, voleva bere, eccetera. Ero giovane, volevo andare in America, avevo tanti sogni e mi sono fatta due spicci. Ma cosa c'è di male? Non c'è nulla di male, ma io lo farei. Io lo farei apposta. Siete dei poveretti. Ora non ne ho più bisogno, pertanto voglio elevare i miei standard e non lo faccio più. Ma vuole elevare i suoi standard la fila. Ora la signora la vuole elevare i suoi standard, la signora. Zitto, sono convinta, segaiolo. Zitto un attimo, David. Zitto, io voglio sapere delle cose. Dai, su, ma è vero che hai venduto del piscio anche? Io? No, solo in questa forma. Ah, solo in questa forma qua. Guarda che è una buona idea. Guarda che è una buona idea questa cosa qua di vendere il tuo pisciame. Il tuo pisciame, sì. Comunque, il pisciame valeva 500 euro. E secondo me, se qualcuno a me chiedesse... Guarda che se qualcuno chiedesse in questo momento a me... Guarda, io vorrei che ricevere del tuo piscio addosso. Io dico sì, 500 euro. È un giusto valore. 500 euro lo faccio tranquillamente, senza problemi. Ma non era ancora popolare, non era ancora famoso. Ora costerebbe 2000. Adesso costerebbe 2000, però per 2000 lo faresti adesso? Ma sì, se la persona si comporta bene, forse sì, non lo so. 2000, ragazzi, mettiamo un limite. All'asta, il pisciame di Paolina all'asta. 2000, si parte da 2000, ragazzi, 2000 come minimo, poi bisogna vedere la persona come chi è. Come minimo, altrimenti ti lancio tavolini e sedie addosso e taraculo. Brava. Allora, sempre una persona ma elegante, è vero che vuoi proporre? Ma certo, perché sono una donna che si deve difendere, principessa un cazzo. Ma difendere da chi? Scappare. Da te stessa? E io, la mia libertà e la mia intimità, i taraculo. Sei incazzata col barista. Sei incazzata col barista, giustamente. Ma vuoi, è vero che una vuoi vaiassa. È vero che vuoi una proporre vaiassa. È vero che vuoi proporre un pompiname ai 10 italiani più ligi all'uso della mascherina? Tu sei d'accordo con questo? Comunque? È vero. Perché d'altronde chi usa il mascherame va premiato, quindi 10 pompe messe così in palio per tutti quelli che sinceramente utilizzano la mascherina per il bene della nostra nazione. E come fai, però sono tanti quelli che usano la mascherina, come fai a offrire un pompame, un pompiname? È comunque un gioco, sai, un sorteggio, come si fa a dire allora alla lotteria, fatti. Certo. D'altronde noi siamo patriottici, persone come noi sono patriottiche, noi amiamo molto la nostra nazione. E dunque un pompiname ai 10 italiani più ligi all'uso della mascherina, che si dimostrano nei tuoi confronti più ligi nei confronti di questa cosa qua. Senti, dobbiamo fare una lista, aiutatemi voi, una lista, poi loro si prenotano e di fatto capiamo se ci inviano tutti i giorni delle belle fotografie con del mascherame in ogni situazione, soprattutto quando si fa del sesso, perché comunque dopo ecco, il decreto sono usciti dei consigli che dobbiamo fare del sesso possibilmente con la mascherina. Poi dunque mandate delle foto sì, mentre fate sì, sesso sì, con la mascherina in diverse situazioni, non solo nel sesso, e verrete premiati dalla signora Paolino. Però voglio concludere con il dolore a rilascio, con la questione del culame, che è molto interessante. La questione del culame è una specie di coach che hai fatto, di coaching, diciamo. Beh, no? Di... ovvio, io sono la maestra Paolina. Allora, il culame è una cosa molto, molto delicata, per cui se c'è l'inserimento e c'è dolore, tu che cosa consigli di fare, Paolina? Dolore, rilascio! Questo serve proprio ad attraversare la catarsi, perché dopo il dolore c'è solo il godimento. È un'evoluzione, un level up, è uno step up, è come diventare Super Saiyan. Quindi accogli il dolore, abbraccialo, inseriscilo dentro, accoglilo, non giudicarlo, e lascialo. E così apri il buco culamico. E la mente? A me fa venire la testa come parla, e la mente, questa starnazza. E la mente? Ma tu sei papa con questo parente, madonna. Ma lascia perdere, che lui non ha inserito mai nulla, lui che deve fare? Ma certo. Che vuole inserire nel culame? Cioè, non vuole inserire. Non ho nessuna intenzione di parlare di queste cose né di inserire ma nulla. Nessuno, ma chi lo vuole da lei fare? insomma, ma perché starnazza così che mi fa venire mal di testa? Insomma, perché starnazza così? Perché starnazza? Ma chi glielo dà sto culare? Non argomentazioni, Parenzo, come argomentazioni? Sta ma la mente come le persone stupide che non sanno perché è collegata no. Perché è collegata al culo? Perché è collegata al culo la mente? Al perché c'ha la faccia come il culo, ah, signora. No, perché ma vabbè, poi la filosofia di Tinto Brass infatti potrebbe dare molte delucidazioni in merito, però di fatto è tutto collegato al cervello, non solo il culame, ma proprio ogni azione, ogni comportamento della nostra psiche conscia oppure inconscia, ecco. Quindi sicuramente anche il culame, cioè, nel che senso, rappresenta la nostra sessualità. Con la mente si può evitare un po' di dolore che può esistere, diciamo, nell'apertura del culame. Io penso che poi per evitare il dolore ci vuole l'azione, ma questo è coaching, cioè? Indipendentemente dal sesso, perché la mente mente mentre il comportamento no. Quindi se la mente a un certo punto ti sta dando il suggerimento che quella cosa lì è dolorosa, fai l'azione. L'azione è apri il culo, rilascialo, aprilo. È solo agendo che tu puoi superare veramente il dolore, perché la mente mente, il comportamento no, aprite il culo. Grande, ciao, e ciao Paolina. Ciao a tutti, vi amo. Ciao, ti amo, italiani. Italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.